Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrère. Traduzione di Francesco Bergamasco. In Storia di un domestico, il libro in cui è raccontato questa vicenda, non c'è una scena madre in cui il protagonista scopre di aver preso un abbaglio. Quando ho riletto il libro, sono rimasto sorpreso che un tipo con tanto spirito di osservazione ci abbia messo quasi un mese a capire che la ricca ereditiera era in realtà la governante. Jenny non ha fatto nulla per nasconderglielo. Non ha sospettato il quiproquo, né, una volta chiarito, quanto profonda fosse la delusione di Edward, che aveva creduto per un attimo di essere stato ammesso tra i privilegiati della terra. E in effetti vi era stato ammesso, ma come amante della domestica. Poiché ora Edward è il suo boyfriend, pensa Jenny, può presentarlo al padrone. Il padrone si chiama Stephen Gray, 40 anni, belloccio, bon vivant, miliardario. Non milionario, miliardario. In inglese, billions. Nel suo libro Limonov lo chiama Gatsby, ma sbaglia, perché Stephen è un Gatsby della seconda generazione, senza inclinature, sicuro del proprio posto nel mondo, cioè l'esatto contrario di Gatsby. Stephen possiede una splendida dimora nel Connecticut, in cui vivono la moglie e i tre figli, e ogni tanto, quando non è a sciare in Svizzera o a fare immersioni nell'Oceano Indiano, gli capita di occupare il pied-à-terre newyorkese di Sutton Place, sul quale veglia la preziosa Jenny. Lei sola vi abita stabilmente, ma ogni giorno vengono ad aiutarla una segretaria, che si occupa della posta, e una donna di servizio haitiana. Questa squadra ridotta, in Connecticut i dipendenti sono una decina abbondante, vive nell'attesa e, va detto, nel timore delle puntate del padrone, il quale per fortuna viene molto di rado e raramente per più di 7 giorni di fila. Ancora meglio sarebbe, pensa Edward, se non venisse proprio. Non che Stephen sia un tiranno, soltanto è impaziente, sempre di corsa, capace per un non nulla di scatti d'ira di cui poi si scusa, preoccupato com'è di mostrarsi un padrone liberale. Potremmo quasi dire, se non fossimo in America, un padrone di sinistra. In inglese la questione del tu resta in sospeso. Ma se Stephen chiama Jenny Jenny, lei lo chiama Stephen e Edward sarà invitato a fare altrettanto. Per niente al mondo Stephen userebbe il campanello o si farebbe portare il vassoio con la colazione in camera. Ovviamente deve essere sempre tutto pronto in ogni momento, con il tè lasciato in infusione il tempo giusto e i toast cotti a puntino. A qualsiasi ora Stephen si svegli. Ma scende lui stesso a prendere il vassoio in cucina e se, come avviene sempre più spesso, vi trova Edward che sta leggendo il New York Times, spinge la delicatezza fino a chiedere se non gli dispiace passarglielo. Edward morirebbe dalla voglia di rispondere, tanto per vedere, «Sì, mi dispiace». E naturalmente risponde «No, Stephen, è tutto suo». Perché Edward ormai è uno di casa. Sin dal primo momento è piaciuto molto a Stephen, che ha amici artisti, si vanta di aver perso $1 milione nella produzione di un film di avanguardia e adora tutto ciò che è russo. Sua nonna era russa, bianca naturalmente, emigrata dopo la rivoluzione, e quando lui era piccolo gli parlava in russo. Ormai sa soltanto poche parole, ma gli resta, come a me, un accento ancien régime. Per questo Stephen ospita i russi di passaggio a New York e per questo è entusiasta di avere in casa, praticamente in pianta stabile, un vero poeta russo con cui parlare della durezza ma anche della autenticità della vita in Unione Sovietica. Edward gli racconta del soggiorno in ospedale psichiatrico e dei guai col KGB. Calca un po' la mano, rimpolpa la versione unanimemente apprezzata dell'internamento politico. Sa quale musica piace al suo interlocutore e gliela suona con la dovuta compiacenza. Edward sorride, depone le tazze nella lavastoviglie, concorda garbatamente con Stephen, ma dentro di sé. Mentre Stephen, assai soddisfatto della loro conversazione, sale a indossare un completo da $10.000 per andare a pranzo in un ristorante dove, con quel che costa il piatto più economico, si potrebbe sfamare per un mese una famiglia di portoricani, sta pensando che sarebbe proprio divertente vederlo in azione, Stephen, se invece di aver ereditato una montagna di quattrini fosse stato paracadutato da solo nella giungla e per cavarsela dovesse contare unicamente sui suoi coglioni e sul suo coltello. Per la prima volta in vita sua, Edouard può osservare da vicino una persona tanto in alto nella scala sociale. E deve ammettere che si tratta di un esemplare piuttosto umano, civile, per nulla somigliante alla caricatura del capitalista diffusa nell'immaginario sovietico. Panciuto, crudele, pronto a succhiare il sangue dei poveri. Tutto questo è vero, ma non sposta il problema di una virgola. Perché lui e non io. C'è una sola risposta a questa domanda, la rivoluzione. Quella vera, non le chiacchiere degli amici di Carol, né le generiche riforme auspicate dai social traditori di ogni generazione. No, la violenza, le teste conficcate sulle punte delle picche. In America, pensa Edouard, è partito con il piede sbagliato. Dovrebbe unirsi ai palestinesi o raggiungere Gheddafi, di cui ha incollato con lo scotch la fotografia sopra il letto. Accanto a quelle di Charles Manson e di se stesso vestito da eroe nazionale con tagna nuda ai suoi piedi. Non avrebbe paura, neanche di morire avrebbe paura. Quello che gli dispiacerebbe è morire da sconosciuto. Se Io Edička fosse stato pubblicato e avesse avuto il successo che meritava, allora d'accordo, lo scandaloso scrittore Limonov, ucciso da una raffica di Uzi a Beirut, occuperebbe la prima pagina del New York Times. Steven e i suoi pari leggerebbero la notizia tenendo il giornale sopra le loro crepe allo sciroppo d'acero e si direbbero con aria pensosa: questo è un uomo che ha vissuto veramente. Così sì varrebbe la pena. La morte da milite ignoto, no. Steven si informa dei suoi progetti. Ha scritto un libro. Perché non farlo tradurre, almeno in parte? Perché non farlo vedere a un agente letterario? Lui ne conosce uno e può presentarglielo. Edouard segue il consiglio di Steven. Paga con i suoi poveri mezzi la traduzione dei primi 4 capitoli, fino alla scena, inclusa, della scopata con Chris nel recinto di sabbia. L'agente li manda in lettura alla casa editrice Macmillan. La risposta tarda ad arrivare, ma sembra che sia la norma. Un mattino Edouard va a dare un'occhiata all'edificio in cui si decide il suo destino. All'ingresso, 2 impiegati postali di colore rovesciano un cassone contenente una montagna di grosse buste. 2 o 3 metri cubi di manoscritti, valuta inorridito Edouard, e ancora di più lo inorridisce il pensiero che lassù, ai piani alti, un tizio che lui non conosce aprirà una di quelle buste. Vedrà il titolo in inglese, That's Me, Eddie, e comincerà a leggere. Può succedere naturalmente che ne sia catturato e che, giunto alla fine del 4 capitolo, entri senza farsi annunciare nell'ufficio del Gran Capo per comunicargli di aver scoperto, in mezzo a tanta roba insignificante, il nuovo Henry Miller. Ma può anche succedere che il tizio alzi le spalle e deponga senza pensarci tanto il manoscritto sulla pila dei respinti d'ufficio. Se almeno Edouard potesse vederlo, sapere che faccia ha l'uomo dal cui gusto, umore o capriccio dipenderà se lui, Edouard Limonov, uscirà o meno dall'informe massa dei perdenti. E se fosse quel giovane che sta entrando nella hall con il passo spedito di chi è di casa, giacca e cravatta, occhiali sottili senza montatura, una vera faccia da culo, c'è da impazzire. In base al numero di bicchieri che trova la mattina sul tavolino davanti al caminetto, Jenny sa se deve preparare la colazione per 1 o 2 persone. Perché Steven torna spesso a casa in compagnia, risvegliando in Edouard una bruciante e dolorosa curiosità. Mi vergogno un po' per lui a riferirlo, ma Edouard ha l'abitudine di dare un voto alle donne, A, B, C, D, E, come a scuola, e si tratta di una graduatoria che contempla sia l'aspetto sociale sia quello sessuale. Con la clamorosa eccezione di Tania, che Edouard ha sempre considerato la quintessenza della categoria A, pur domandandosi se non l'abbia un po' sopravvalutata, nella sua vita ci sono state molte D e anche alcune E, quelle che ti sbatti senza andare a dirlo in giro. Jenny, diciamo una C. Le donne che escono dal letto di Steven sono come quelle che si incontrano ai ricevimenti dei Lieberman, tutte A. Come quella contessa inglese, non bellissima ma incredibilmente elegante, la quale, assicura Jenny, possiede in Inghilterra un castello con 300 domestici. 300 domestici, ripete la ragazza con orgoglio, come se fossero suoi. E la cosa più inconcepibile per Edward è che Jenny sembra sinceramente felice per la contessa e per se stessa, che ha la fortuna di servire la contessa. Edward sarebbe voluto sprofondare sottoterra quando Steven lo ha presentato con cordialità all'amica come il boyfriend della nostra cara Jenny. Su un'isola deserta, su questo Edward non ha il minimo dubbio, la contessa lo troverebbe attraente. Ma lì, la parte di amichetto della governante dai polpacci grossi lo squalifica completamente sul piano sessuale, lo rende invisibile e Edward ce l'ha a morte con Jenny. Non sopporta più il suo buon umore, il suo mostrarsi sempre soddisfatta della propria vita, il modo in cui si siede, allargando le sue grasse cosce e il fatto che non si appatti nemmeno per schiacciarsi i punti neri sul naso. E non sopporta le sue due migliori amiche, che piombano in casa appena Steven se ne va, per fumare spinelli parlando di chakra e diete macrobiotiche, che poi non sono nemmeno vere hippie, come quelle della famiglia di Charles Manson. Una fa la segretaria, l'altra l'assistente di un dentista. Tutto sommato, Edward preferisce ancora i genitori di Jenny, autentici rednecks del Middle West, a cui la ragazza vuole a tutti i costi presentarlo quando i suoi vengono a passare una settimana nella metropoli. Il padre lavorava per l'FBI e somiglia in modo sorprendente a Benjamin. Quando Edward glielo dice e aggiunge che il padre lavorava per il KGB, l'altro scuote la testa e dichiara con solennità che ci sono brave persone ovunque. Il popolo americano e quello russo sono pieni di brave persone. Sono i dirigenti che fanno le porcate e gli ebrei. Racconta con orgoglio che Edgar Hoover gli ha mandato un regalo per la nascita di ciascuno dei suoi figli e quando viene a sapere che Edward scrive, gli augura di avere lo stesso successo che ha avuto Peter Benchley, l'autore dello squalo. Birra, camicia a scacchi, buon diavolo senza malizia. A Edward piace più della figlia. Si potrebbero vedere le cose con serenità, come fa Jenny. Lei ha un posto da leccarsi le dita. Abita in una residenza splendida, con tutto il lusso possibile e immaginabile, e tranne i pochi giorni al mese in cui è presente Steven, e ovviamente bisogna essere ai posti di combattimento, la pace regna sovrana. Riceve chi vuole, non paga niente, e in cambio di un po' di disponibilità e di pazienza, gode di tutti i vantaggi della ricchezza senza doverne sopportare le preoccupazioni. Perché i ricchi, secondo Jenny, sono oppressi dalle preoccupazioni. A nessuno piacerebbe essere al loro posto. Certo, si potrebbero vedere le cose in questo modo. Edward potrebbe considerare un meraviglioso dono del destino il suo ingresso in quella casa dove ormai praticamente vive. Ma cazzo, Jenny, tu sei la cameriera e io sono l'amante della cameriera. Gli scappa detto un giorno come uno sputo in faccia. Vuole farla uscire dai gangheri, ma Jenny non esce dai gangheri. Lo guarda, sorpresa più che rattristata, come se fosse matto. E invece di innervosirsi, gli risponde con calma: «Nessuno ti obbliga a restare, Ed». Semplice ma eccellente risposta. No, nessuno lo obbliga a restare. Se non che, dopo aver assaporato il lusso, lui che a 35 anni non ha praticamente mai vissuto in condizioni dignitose, non ha la minima voglia di tornare all'Hotel Embassy, alle giornate oziose sui prati di Central Park, alle scopate nei bassi fondi. Peccato, pensa Edward, che Steven non sia Finocchio. Shmakov, che conosce tutti, gli dà notizie di Tania. Edward la credeva ormai inserita in un mondo a lui inaccessibile. Loft, champagne, cocaina, artisti e modelle internazionali. Ma in realtà Tania non se la passa molto bene. Ha lasciato Jean-Pierre, ha avuto altri amanti che l'hanno trattata piuttosto male e dall'ultimo è stata addirittura piantata. I due si rivedono. Tania abita in uno squallido monolocale non tanto diverso dalla loro topaia di Lexington. Tira su con il naso, ha gli occhi arrossati e il frigo è vuoto. È già tanto se chiede a Edouard come vanno le cose. Meglio così. A lui non farebbe piacere confessare la propria posizione di domestico acquisito. Escono a fare due passi e, sapendo che per lei, come per lui, è un magico toccasana, Edouard le propone di andare a comprare vestiti da Bloomingdale. «Prendi quello che vuoi», dice Edouard. Lei lo fissa, preoccupata, sospettosa. «Avrà abbastanza denaro?» «Nessun problema», ha appena riscosso l'assegno del welfare. «Bene, indovinate che cosa sceglie Tania? Un paio di mutandine. Un paio di deliziose mutandine da puttana per metterci dentro la sua passera che lui non ha più il diritto di aprire e di penetrare. Tania vuole provarle ed esce dalla cabina a seno nudo, con i tacchi alti e i collan, con sopra le mutandine e, nonostante questo, si intravedono i peli. Edouard si domanda se è talmente abituata a girare così quando lavora da non farci neanche più caso o se lo fa apposta per eccitarlo e frustrarlo. La disprezza. È una troia, un'indossatrice fallita, una donna perduta che farà una brutta fine, ma dal fondo di quel disprezzo scaturisce un'ondata d'amore e di pietà che lo travolge. Che la sua principessa russa sia diventata quell'essere patetico, volgare e anche cattivo per difendersi dal suo stesso terrore gliela rende ancora più cara. Ora, più che di scoparla, ha voglia di stringerla fra le braccia, cullarla, consolarla, ha voglia di dirle: «Finiamola con le stronzate, andiamocene finché siamo in tempo, concediamoci una seconda possibilità. L'unica cosa che conta al mondo è l'amore, è potersi fidare di qualcuno, e tu puoi fidarti di me. Io sono leale, buono e forte. Quando ho dato la mia parola, non la ritiro. Non possiamo tornare nel nostro paese, ma possiamo lasciare questa grande città che ci mortifica, andare in un posto tranquillo. Troverò un lavoro come tutte le altre persone, farò il traslocatore come Ionia Casagor, e poi comprerò un camion, due camion, diventerò proprietario di un'impresa di traslochi. Avremo una famiglia. La sera tu porterai in tavola la zuppa e io ti racconterò la mia giornata. La notte staremo abbracciati, io ti dirò che ti amo, ti amerò sempre, ti chiuderò gli occhi o tu li chiuderai a me». Dopo aver speso $100 per due paia di mutandine, Edouard le propone di andare a bere qualcosa. Lei conosce un locale non distante e va da sé che è un locale terribilmente costoso. Tania si allontana un momento per fare una telefonata. Edouard, solo al tavolo, si ripete ciò che ha deciso di dirle e si esalta nel ripeterlo, ma quando torna lei gli chiede se non gli dispiace che li raggiunga un amico e 5 minuti dopo l'amico compare. È un tizio sulla cinquantina che ordina un whisky e tratta Tania come un proprietario noncurante. Parlano entrambi davanti a Edouard di persone che lui non conosce. Ridono. Poi Tania si alza, dice a Edouard che devono andare, si china sull'ex marito e gli dà un bacio leggero all'angolo delle labbra, ringraziandolo. «È stato davvero carino. Mi ha fatto piacere vederti». E se ne va con il tizio, lasciando a Edouard le 3 consumazioni da pagare. Edouard torna a casa passando per Madison Avenue e squadrando i passanti, soprattutto gli uomini, per fare un confronto. Meglio di me? Peggio? Per lo più sono vestiti meglio, siamo tra i ricchi. Molti sono più alti, qualcuno più bello, ma soltanto lui ha l'aria dura e determinata di uno capace di uccidere. E quando incrociano i suoi occhi, tutti distolgono lo sguardo spaventati. Arrivato a Sutton Place, Edouard si mette a letto, si ammala. Per 2 settimane Jenny lo cura come un bambino, le piace farlo, e quando lui sta meglio gli dice con un po' di rimpianto: «Sembravi umano». Torna l'estate. È passato un anno da quando Edward ha scritto il suo libro a Central Park. Jenny gli ha proposto di andare in vacanza con lei sulla costa occidentale e lui ha accettato. Un po' per curiosità, un po' per viltà, perché non può stare a Sutton Place quando lei non c'è e il mese di agosto all'Hotel Embassy gli fa paura. Ma appena scesi dall'aereo, quando si ritrovano in un'auto a noleggio in compagnia del fratello e delle due migliori amiche di Jenny, quelle che lui non sopporta, Edward capisce che sarà un incubo. La California non gli dispiace, ma bisognerebbe starci, pensa, insieme a Anastasia Kinski, non con quella combriccola di piccoli borghesi che giocano a fare gli hippie, bevono succo di carota e fanno i calcoli su un angolo della tovaglia di carta di miserabili caffetterie per dividere il conto, scoppiando a ridere rumorosamente a lungo per far vedere che, secondo la loro espressione preferita, se la godono un sacco. Dopo 3 giorni passati a farsi mantenere con l'aria imbronciata, Edward non ne può più e decide di tornare a New York. Jenny non cerca di trattenerlo. Il suo credo è che ognuno è libero di fare quello che vuole, purché non dia fastidio agli altri. New York è una fornace e lui pensa, troppo tardi, che avrebbe fatto meglio a rimanere sulla costa occidentale. Perso per perso, in agosto sarebbe meglio starsene a Venice che a Manhattan. Ricomincia a scrivere. Niente poesie stavolta, né un racconto. Prose brevi, raramente più lunghe di una pagina, in cui finisce tutto quello che Edward ha in testa. Quello che ha in testa è spaventoso, ma bisogna riconoscere che sa vuotare il sacco con onestà. Rancore, invidia, odio di classe, fantasie sadiche, ma nessuna ipocrisia, nessuna vergogna, nessuna scusa. In seguito queste pagine diventeranno un libro, a mio parere uno dei suoi migliori, con il titolo Diario di un fallito. Eccone un saggio. Verranno tutti, i delinquenti e i timidi. I timidi sanno battersi bene. Gli spacciatori di droga e i procacciatori di clienti per i bordelli. Verranno gli onanisti, gli amanti di riviste e di film porno. Verranno quelli che si aggirano da soli nelle sale dei musei o sfogliano libri nelle biblioteche cristiane. Verranno quelli che ci mettono 2 ore a sorseggiare il loro caffè da McDonald's, guardando malinconicamente attraverso la vetrata. Verranno i falliti in amore, negli affari, nel lavoro, e quelli che hanno avuto la sfortuna di nascere in una famiglia povera. Verranno i pensionati che al supermercato fanno la coda nella fila riservata a chi compra meno di 5 articoli. Verranno i delinquenti neri, che sognano di scoparsi una bianca di buona famiglia e siccome non ce la faranno mai, la violentano. Verrà il doorman dai capelli grigi, che vorrebbe tanto sequestrare e torturare quell'insolente ragazzina ricca che sta all'ultimo piano. Verranno gli audaci e i forti di ogni strato sociale per distinguersi e conquistare la gloria. Verranno gli omosessuali a coppie, tenendosi abbracciati. Verranno gli adolescenti che si amano. Verranno i pittori, i musicisti, gli scrittori di cui nessuno compra le opere. Verrà la grande e valorosa tribù dei falliti, losers in inglese, in russo neudacniki. Verranno tutti, imbracceranno le armi, occuperanno una città dopo l'altra, distruggeranno le banche, le fabbriche, gli uffici, le case editrici. E io, Edward Limonov, marcerò in testa alla colonna e tutti mi riconosceranno e mi ameranno. Al ritorno dalle vacanze, Jenny gli dice con aria seria che deve parlargli. Edward non si è accorto di niente. Non ha avuto il minimo sospetto su quel buzzurro con baffi e camicia a scacchi a casa del quale hanno fatto una grigliata il giorno prima della sua precipitosa partenza. E ora viene a sapere che Jenny andrà a vivere con lui in California, che lo sposerà e avrà dei figli. E del resto è già incinta. «Tra noi non era vero amore», dice con dolcezza Jenny a Edward. «Solo una bella amicizia che non ha motivo di finire nonostante la distanza fra una costa e l'altra. Anzi, da quella brava ragazza che è sempre stata, Jenny non vuole che Edward soffra. E lui recita la parte di quello che capisce, che le augura di essere felice, che trova anzi che è meglio così. Ma in realtà soffre. Ed è una sofferenza che lo prende alla sprovvista e lo devasta. Pensava che sarebbe stato lui a lasciarla, non il contrario. Edward non l'amava, ma era sicuro che lei lo amasse, e questa certezza lo rassicurava. Aveva qualcuno che lo aspettava, un rifugio. E ora non ha più niente. Di nuovo il mondo ostile e il vento freddo là fuori. A Sutton Place è ancora il benvenuto, ma per una tazza di caffè, niente di più. Quando lo vede, Steven ha il cattivo gusto di battergli una mano sulla spalla, come per consolarlo di essere stato piantato. Lui, Limonov, piantato da quella baldracca. Steven gli chiede che cosa abbia intenzione di fare ora. Il libro è ancora in lettura, brutto segno. Sapendo che Edward è abile nei lavori manuali, Steven gli dice che un suo amico sta cercando qualcuno che esegua dei lavori in nero nella casa di campagna. Edward si ritrova così per 2 mesi a Long Island con una pala e una cazzuola in mano per $4 all'ora. In autunno i ricchi newyorkesi occupano le loro eleganti residenze al mare soltanto nel weekend. Durante la settimana non c'è nessuno. La casa non ha riscaldamento né mobilia. Edward vive accampato. Dorme su un materasso in schiuma che isola la belle meglio dal pavimento umido con un telone di plastica. Rimesta zuppe liofilizzate su un fornello da campo. Indossa maglioni l'uno sopra l'altro senza riuscire a scaldarsi. Qualche volta approfitta di una schiarita per andare in spiaggia a spaventare i gabbiani o a farsi una birra nell'unico bar deserto del paese più vicino. E sulla via del ritorno immancabilmente si inzuppa fino alle ossa. Allora si infila battendo i denti nel sacco a pelo e sogna Jenny che fa l'amore con il suo buzzurro con i baffi. Se gli avessero detto, quando stavano insieme, che un giorno si sarebbe fatto una sega pensando a lei. Esclusi il proprietario del bar e quello del piccolo supermercato dove si rifornisce, Edward non parla con nessuno per parecchie settimane di seguito. Benché abbia dato il proprio numero a qualche essere umano che considera ancora suo amico, Smakov, Lyonia Kassagor, Jenny, il telefono non squilla mai. Nessuno pensa a lui. Nessuno si ricorda che esiste. Eccetto un giorno il suo agente letterario, che lo chiama per dirgli che Macmillan ha rifiutato il manoscritto. Troppo negativo. In effetti, un libro che termina con la frase «andate tutti a farvi fottere», la gente dice, senza crederci, che non si dà per vinto, che ha in mente altri editori. Edward non vede l'ora di terminare quella conversazione sgradevole. Non vede l'ora di riagganciare. Riaggancia. Resta seduto sul suo sacco di cemento solo nella sala vuota, solo al mondo. La pioggia cade a raffiche così violente che colpisce le finestre di traverso, come in aereo. Edward si dice che stavolta è fregato, ha tentato e ha fallito. Resterà un proletario che fa buchi nel cemento, ridipinge le case dei ricchi fuori stagione e sfoglia riviste pornografiche. Morirà senza che nessuno sappia chi è stato. Ho l'impressione di avere già scritto questa scena. In una storia inventata bisogna scegliere. Il protagonista può toccare il fondo una volta, anzi è consigliabile, ma 2 è troppo. Si rischia di ripetersi. Nella realtà, penso che Edward il fondo l'abbia toccato parecchie volte. Parecchie volte si è ritrovato a terra, veramente disperato, veramente privo di appoggi e, cosa che ammiro in lui, si è sempre rialzato. Si è sempre rimesso in cammino, si è sempre fatto coraggio, pensando che, quando hai scelto la vita dell'avventuriero, sentirsi così perduti e soli, senza vie di scampo, non è altro che il prezzo da pagare. Quando Tania l'ha mollato per sopravvivere, ha adottato la tattica di lasciarsi andare a fondo. La miseria, la strada, il sesso selvaggio, ai suoi occhi sono state altrettante esperienze. Stavolta gli viene un'altra idea. Di lì a poco, Jenny raggiungerà il fidanzato in California. E Steven, che si rammarica di perderla, non è ancora riuscito a sostituirla. Lui, Edward, ha svolto per parecchi mesi le mansioni di aiuto domestico, riparando il piede di un tavolo, oliando gli attrezzi da giardinaggio, preparando un borscht che ha riscosso un grande successo fra gli ospiti. Conosce la casa alla perfezione. E soprattutto, Steven è uno snob. L'idea di avere per maggiordomo un poeta russo gli piacerà da pazzi. Everybody rock to the new record.